Mi chiamo Cecilia Freschini, sono una curatrice, forse è meglio definirmi un'intermediatrice culturale. Mi interessa molto scambiare delle culture, portare culture diverse in posti molto diversi. Per me l'arte è comunicazione, quindi è fondamentale anche l'apporto che può dare una radio all'arte contemporanea. No, mi fai sorridere perché io alla fine mi trovo molto meglio a lavorare con i cinesi perché sono estremamente molto più rispettosi, gentili e professionali. E quindi sicuramente riuscire a creare dei rapporti basati sul rispetto e sulla gentilezza reciproca è fondamentale. Non si crea quel feeling comunque di riuscire a comunicare, faccio fatica a portare avanti il lavoro, anche perché lavorando appunto in Cina per me avere un certo tipo di comunicazione via Skype, via email o altri social network è fondamentale, insomma. Allora, questa è una selezione di video art che è stata pensata come tour exhibition, quindi dopo Verona, che è stata presentata in due location, Art Verona e la Biblioteca Civica, che è peraltro l'archivio regionale di video art del Veneto, sarà esposta a Visual Container di Milano dal 15 novembre e poi la porto l'anno prossimo, sarà portata in febbraio al Cairo, in Nepal e in Cina. Per me era molto importante impostare questa mostra come un viaggio itinerante, perché trattandosi di spiritualità mi piaceva lasciare un mio contributo e quindi parlare di questo tema importantissimo in varie situazioni, soprattutto magari nel Medio Oriente, soprattutto in situazioni che sono un po' sensibili a questa tematica. Ho selezionato 14 artisti, in quanto persona ho chiesto loro di lavorare sulla spiritualità. Mi interessava di toccare una panoramica molto ampia, quindi sono artisti che arrivano da 10 paesi diversi, dall'Africa a Mosca, Giappone, Italia, Turchia, Egitto, Iraq, per far notare come le risposte che arrivano sono più o meno le medesime, e quindi non c'è differenza in realtà tra artisti occidentali e artisti asiatici. Diciamo che ovviamente magari un italiano, un occidentale tocca più argomenti cattolici, o comunque può ritrovare un certo tipo perché fa parte della sua cultura, mentre magari un cinese, un taiwanese porterà un qualcosa legato al buddismo. Però sostanzialmente quello che vogliono comunicare è la stessa cosa, quindi tolleranza. Sicuramente ho scelto questo tema perché lo sentivo molto, volevo esprimerlo, quindi ho usato questi artisti perché esprimessero una parte di me, quindi portassero questo messaggio che era quello che volevo esattamente. Mandando poi la newsletter in giro mi sono resa conto che ho avuto una risposta incredibile, molto entusiasta, molti artisti mi hanno risposto presentandomi del lavoro, ma non solo, molti collezionisti, molti curatori mi hanno ringraziato anche, si sono complimentati per aver toccato, per aver parlato di questa cosa. Quindi mi sono accorta che non era solamente una mia esigenza parlare di spiritualità, ma c'è proprio un bisogno comune di toccare questo argomento.